Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. Mezz'ora dopo, al circo, Ario era più acceso ancora, esultante. Guardava da tutte le parti, verso le gradinate che formicolavano zeppe. Bramava d'essere scorto dai due ragazzi che non avevano voluto aiutarli ad entrare, ed essere scorto proprio là in prima fila, accanto a Lidia, che tutti osservavano e cui tre marinai gettavano sorridendo pallottoline di carta d'argento. Dei primi numeri, ad Ario e Berto, che assistevano col fiato sospeso protendendosi verso l'arena, interessarono soprattutto i lanciatori di coltello. Invece Lidia, che chiudeva gli occhi ogni qualvolta vedeva volare una nuova lama verso il corpo della fanciulla, piacquero i cavalli ballerini. Durante l'intervallo, mentre da tutte le parti si levava un brusio che copriva le voci dei gelatai, Ario si ricordò con allegria, ma anche con una certa inquietudine, del pomeriggio e di come avevano chiesto l'elemosina. Ora invece erano ben vestiti e lavati e pettinati e calzavano le scarpe. «Se qualcuno che ci ha fatto la carità, pensò, ci vede qui e ci riconosce». Quell'inquietudine, pur nel fervore della serata, non lo lasciò più. Gli tornavano alla memoria, insistenti, le tre ragazzine pallide. Gli pareva continuamente di rivederle, esili, con quegli occhi enormi, stupiti. Questo ricordo si fece tanto vivo che gli ebbe tutta un tratto l'impressione che esse si trovassero lì, nel circo, e lo stessero guardando. Sentiva sempre più la loro presenza, sebbene andasse cercandole un po' cauto con lo sguardo e non le vedesse da nessuna parte, e si sentiva scoperto, osservato ininterrottamente da loro. Proruppero alti i primi squilli di una marcia. Il brusio andò scemando. Si spense. Davanti, nell'arena, Ario vide, eretta in quei pochi minuti, una gabbia che alcuni ragazzi in divisa rosso-azzurra andavano saldando sveltissimi, arrampicandosi sulle sbarre e infilando qua e là lunghe verghe di ferro con un risuonare secco. Poi una voce gridò. La musica si interruppe di colpo, quasi stesse accadendo qualcosa di imprevisto. E mentre tutti si volgevano da una parte, si udì uno scalpiccio rapido e poi un suono cavernoso, prolungato. Si vedeva immobile, con le fauci aperte, in un punto ove le gradinate s'aprivano lasciando uno stretto passaggio, una belva dalla spettacolosa testa fulva. «Sahib!» vibrò come una scudisciata una voce e si udì uno schiocco. Il leone si scosse e di corsa entrò nell'arena. Ario ebbe un balzo, poi con le guance in fiamme, mentre intorno lo si guardava ridendo, si ricompose. Gli era parso che la belva fosse libera. Soltanto adesso scorgeva la bassa corsia di ferro che correva tra l'entrata e la gabbia. «Sahib! Eleonor!» risuonava la voce del domatore e si udivano altri schiocchi di frusta. «Hai avuto paura?» si volse Lidia sorridendo. Quando i cinque leoni furono nella gabbia, il domatore si tolse con un gesto ampio l'accappatoio, rosso come una fiamma, e lo gettò lontano a un ragazzo che lo raccolse al volo. Seminudo come un gladiatore, il petto, le braccia e le cosce abbronzate, l'uomo entrò nella gabbia. La frusta tornò a schioccare, sempre più vicina alle belve che raggrinzivano il muso scoprendo i denti. Ario era tutto proteso, con un lieve ansito. Poi gli parve che il capo cominciasse a girargli e provava di nuovo un empito di felicità squillante. Egli sapeva ora che cosa avrebbe fatto da grande. Il domatore. e sarò famoso. E tutti i giornali del mondo e la radio parleranno di me. E mi si vedrà anche al cinema. Ma prima doveva partire, imbarcarsi, andare. Il capo gli girava in un vortice di gioia e a stento si tratteneva sulla gradinata, nei paesi delle tigri e dei leoni. Doveva attraversare gli oceani, a bordo di un veliero magari, lavorando da mozzo o da sguattero, non importava. Sentiva, sempre più alti, i battiti del cuore. Eneo, pensava, come sarà stupito un giorno Eneo quando ritornerò. E gli occhi, di nuovo, gli si empivano di lacrime. Fece Lidia. «Cosa dici?» «Niente». «Non parlavi?» «No», arrossì. Il domatore costringeva i leoni a salire su alcuni sgabelli e a formare ora un aggruppamento, ora un altro. Lo aiutavano dal di fuori due ragazzi, inserendo tra le sbarre due pertiche di ferro, con le quali facevano l'atto di stimolare le belve più lente. «Sahib, no, Sahib!» si udiva sempre più spesso. «Chissà», pensava Ario ansando, con gli occhi sul domatore, «se Eneo avrebbe tanto coraggio». Faceva caldo, quasi che dall'esterno non filtrasse attraverso il tendone un alito d'aria. Pure, lì fuori sul lungomare, la sera doveva essere ventilata come il solito e il padiglione, aperta la cupola, lasciava vedere il cielo. Sulle gradinate da ogni parte la gente si faceva aria coi fazzoletti e molti guardavano verso l'alto se un po' di brezza cominciasse a agitare la tenda. Anche Ario era in sudore e sentiva vicino a sé, ma con un'impressione di piacere, Lidia sommuoversi e soffiare. Quel caldo, quell'afa, accresciuti dalle centinaia di persone stipate lì dentro, andavano aumentando sempre di più. Ma ecco, e sulle gradinate ci fu un ondeggiamento e si alzò un mormorio, un fragore di tuono. Seguì un colpo di vento che fece tremare il padiglione, mentre la tenda, in alto, prendeva a sbattere schioccando. Di lì a un istante, e si udivano già tamburellare le prime gocce e molti si erano levati in piedi quasi volessero andar via, Ario vide Sahib avanzarsi verso il domatore, digrignando, e quello arretrare. Si udiva fitta la pioggia e lo scroscio crescente del mare e insieme giungeva ondate, sebbene la cupola fosse stata subito chiusa, un odore salmastro, intenso, misto a un altro più vicino, di terra, di paglia e di stalla bagnata. La belva e il domatore stettero alcuni istanti immobili, a fronte, poi si alzò un ruggito, lungo. Ario si accorse con un sussulto che al domatore era caduto il frustino. Lo distinse, rosso e azzurro, ormai inutile. Nell'arena, nel momento stesso in cui l'uomo, torto lievemente il collo verso uno dei ragazzi che vigilavano la gabbia all'esterno, mormorava qualcosa. Il ragazzo, lasciata cadere la pertica di ferro, corse nell'angolo ove s'apriva la porticina per cui il domatore era entrato nella gabbia e con due o tre colpi tolse le spranghe che la chiudevano. L'uomo, frattanto, retrocedeva, passo passo, portandosi con le spalle verso l'uscita. Ed erano strane, nell'orgoglioso costume di gladiatore, quelle sue mosse caute. Ario lo guardava deluso. Era come se dentro qualcosa gli venisse meno e si sentiva battere il cuore quasi di vergogna per lui che gli era parso poco fa più forte e più coraggioso di Eneo. Ma a un tratto fu senza respiro. Il leone, con le fauci immobilmente aperte come stesse per ruggire, la pelle raggrinzita e la criniera ritta, si avanzava sul domatore. Da ogni parte, sulle gradinate, si guardava protesi, sebbene qualcuno sussurrasse che era tutto un trucco, e Ario, dopo quel momento che era rimasto senza fiato, sentì il cuore venirgli su, precipitoso. Al rumore che fecero le spranghe rimosse, S'udiva in quel silenzio soltanto lo scroscio dell'acqua, due leoni che stavano presso la porticina, già inquieti sugli sgabelli, si rizzarono e si volsero. Vedendo il ragazzo che soleva stimolarli con la pertica, si scansarono, bruschi, balzando giù dagli sgabelli che caddero e si accavallarono, ostruendo l'uscita. Il domatore, che fissava sempre Sahib negli occhi, continuava a retrocedere, ignaro. Ancora due passi, un passo, e sarebbe incespicato e caduto all'indietro. Mentre fuori si udiva uno schianto e poi un rimbombo di tuono, tutti guardavano l'uomo, che pareva ancor più in pericolo così seminudo. Egli si sarebbe accorto a tempo dell'ostacolo, forse. Ma come uscire? Il tempo necessario per gettar via gli sgabelli, tralasciando di trattenere Sahib con lo sguardo, poteva perderlo. S'alzò in quella un altro ruggito, lungo, continuato, come in risposta all'imperversare del tempo. E subito, quasi accogliessero un richiamo, i due leoni, balzati giù dagli sgabelli, si affiancarono irrequieti. «L'acqua!» gridò una voce. I due ragazzi che vigilavano la gabbia si voltarono e raggiunsero d'un balzo sotto le gradinate un punto ove accorrevano altri del circo. Ario ebbe l'impressione che approfittassero per fuggire e soltanto allora riconobbe uno dei due che sino a quell'istante, sorvegliando la gabbia, gli aveva mostrato il dorso. Era il ragazzo dello spazzolone, quello che la sera innanzi le aveva condotti a vedere il pasto delle belve e poche ore prima si era rifiutato ad aiutarli a entrare nel circo. Una faccia sbiancata che correva via mentre la pertica di ferro cadeva nella sabbia. «È troppo tardi per l'acqua!» gridò una voce dall'alto delle gradinate. «Entrate nella gabbia! Sgombrate l'uscita!» Ario scattò in piedi. «Che fai?» udì dietro di sé. Non sapeva che forza lo portasse. Gli turbinava il capo e si sentiva leggero. Gli pareva di volare. Udiva alle proprie spalle un ondeggiamento, un vocio. Tutto il circo balzava in piedi. Le tre ragazzine, pensava, Lidia, Berto, mi guardano. Si sentiva travolto, portato via dalla sua stessa audacia. Gli pareva sempre di volare e sentiva, con commozione, tutti gli occhi su di sé. Spalancare la porticina, entrare nella gabbia senza pensare, senza vedere, e così ciecamente rimuovere prima l'uno e poi l'altro sgabello. Lo riscosse e lo stordì l'applauso che scrosciava da ogni parte. Tutto il circo era in piedi e urlava. Applaudì anche lui, ma stentando a ritrovarsi, quasi uscisse da un sogno. Il domatore lo intravedeva seminudo lì davanti nella calca, era fuori dalla gabbia, salvo. «Chi lo ha aiutato a uscire?» si chiese. «Com'è stato?» Non riusciva a capirlo. Era troppo il tumulto dentro e fuori di lui, ma gli pareva che la sua corsa non fosse stata inutile, come se anche lui lo avesse aiutato. Mentre s'alzavano le note di una fanfara, trionfali, e una marea ondeggiava nell'arena, la mano del domatore nella folla strinse anche la sua. E allora gli parve davvero, in un empito di gioia, di essere stato anche lui a salvarlo. In quel momento vide, lontani sulle gradinate, i ragazzi in divisa rossa e azzurra e riconobbe di nuovo quello dello spazzolone guardare in giù, tra increduli e sgomenti, con la manica d'acqua in mano, floscia. Ritornando al mandracchio, a braccio di Berto e Lidia, dietro il domatore che veniva portato in trionfo, lo seguivano tutti i monelli delle rive. Non ne aveva mai visti tanti. L'anima gli tumultuava ancora. Si sentiva più dei ragazzi del circo e più di Eneo, più di tutti. E Lidia rideva, parlava e rideva e gli stringeva il braccio camminando con slancio, come se andassero tutti e tre assieme chissà dove. Procedendo a testa alta nella notte schiarita dal temporale, e i piedi incontravano, ma che importava, mota e pozzanghere, il petto gli si allargava in una felicità mai provata e gli veniva voglia di correre e di cantare. Si sentiva ormai capace di qualsiasi cosa, quasi avesse davvero salvato lui, il domatore. Lui solo poteva imbarcarsi, partire, iniziare la sua vita quando voleva. Stretto fra Berto e Lidia, camminando sempre con quell'impeto, respirava a fondo l'aria rinfrescata, che aveva un odore ora dolce e ora salso, e guardava il cielo sterminato, tutto vivo di stelle dopo la pioggia, con un'impressione veemente e felice e assetata, libera, come se l'avvenire stesse per essere suo.